in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. E cominciamo col dare uno sguardo alle prime pagine che oggi, come a volte capita, hanno aperture diverse. Ci sono giorni, domeniche in particolare, visto che ci sentiamo alla domenica, in cui i giornali scelgono la stessa apertura. Oggi non è uno di quei giorni. Il Corriere della Sera, per esempio, dedica l'apertura all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ne avete sentito parlare tanto anche a Radio 24 ieri. Il titolo scelto dal Corriere è l'atto d'accusa dei magistrati. Da Torino a Palermo ci sono questi allarmi lanciati su corruzione e mafia, ma anche molte critiche alle nuove leggi e a questa riforma della giustizia che sta prendendo corpo in mezzo a molte critiche e molti ostacoli. Vi segnalo dal Corriere della Sera una lettera di Anna Bulgari Calissoni che racconta, una lettera aperta al ministro degli esteri Paolo Gentiloni, ricorda come quando fu rapita insieme al figlio nel 1983 pagare il riscatto fu molto difficile, fu pagato alla fine un riscatto di 3 miliardi di lire di allora e fu molto difficile perché i beni furono sequestrati come prevedeva la legge, i beni della famiglia. E allora il titolo della lettera, che poi continua a pagina 15, io e mio figlio rapiti di serie B perché lo Stato ci abbandonò. Sapete che una delle critiche maggiori alla politica italiana, che è quella comunque di pagare i riscatti o in denaro o in altri modi o in denaro più altra merce di scambio, pagare i riscatti delle persone rapite all'estero, come è capitato di recente con le due cooperanti in Siria, è contestata anche argomentando che se invece in Italia viene rapito qualcuno scatta immediatamente il blocco appunto ai beni della famiglia perché la famiglia eviti di pagare il riscatto. La razza naturalmente è evitare altri rapimenti, perché se i riscatti non possono essere pagati si immagina che sia un disincentivo a ulteriori rapimenti, e da qui la lettera appunto di Anna Bulgari Calissoni. Vi segnalo anche il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Presidente della Repubblica. Mancano pochi giorni, sapete quante illazioni questo Toto Quirinale ha un po' contagiato tutti, e allora il sondaggio: gli italiani e il nuovo Presidente, un politico noto all'estero. Quindi questo sondaggio smentirebbe l'idea che tutto sommato gli italiani preferirebbero magari una persona estranea alla politica. La Repubblica sceglie invece di aprire su un'intervista di Federico Fubini al ministro dell'economia Padoan. Il virgolettato è: bene Draghi ma non basta. Naturalmente il riferimento è alla decisione arrivata mercoledì di Mario Draghi sul tanto atteso quantitative easing, cioè il comprare titoli di Stato, semplifico molto, con nuova moneta, quindi uno considerato, chiamato da molti il bazooka di Draghi, e comunque considerato da quasi tutti uno stimolo all'economia. Come vedremo sul Sole ci sono anche le previsioni di quanto potrebbe crescere il PIL italiano grazie a questo intervento della Banca Centrale Europea, e Repubblica abbina questa analisi di Padoan sull'operato di Draghi alle elezioni in Grecia. Al giorno di Tsipras l'Europa trema, come sappiamo oggi appunto in Grecia si vota, moltissime le analisi, come vedremo, ne leggeremo alcune anche dal Sole 24 Ore. Poi vi segnalo un intervento di Roberto Saviano: perché cerchiamo nelle serie TV una vita che assomiglia alla nostra. Abbastanza curioso, perché è come se Saviano, almeno così sembra, parlasse di sé senza parlare di sé. Sapete che in questi giorni la Rai sta trasmettendo la serie Gomorra, tratta dal film Gomorra, tratto a sua volta dal libro di Saviano. Saviano ha collaborato sia alla sceneggiatura del film che alla sceneggiatura della serie TV. La serie TV sta avendo molto successo ed ecco che, senza nominarla, comunque Saviano ci spiega perché cerchiamo nelle serie TV una vita che assomiglia alla nostra, che poi nel caso di Gomorra speriamo che non sia esattamente così. Ma vi dicevo l'intervista di Padoan, che trovate alle pagine 2 e 3 della Repubblica. Vi leggo questa domanda, un paio di domande appunto fatte da Federico Fubini al ministro dell'economia, Piercarlo Padoan. Prezzo del petrolio dimezzato, l'euro molto meno forte, il PIL del 2015 resta allo 0,6% previsto dal governo o sarà di più? E Padoan risponde: le nostre stime andranno aggiornate. Quanto all'idea di ritoccarle al rialzo, direi a occhio di sì. Alcuni previsori lo suggeriscono. Bisogna tener conto dei fattori di freno. E l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, è meno ottimista. Prevede per l'Italia una crescita dello 0,4% nel 2015. Io tenderei a pensare che il quadro macroeconomico quest'anno sarà più volto all'espansione. E poi un accenno a quello che ha detto ieri Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Tedesca, chiede Fubini. Weidmann teme che gli interventi della BCE indeboliscano la spinta a sacrifici e riforme in Italia, e Padoan risponde: l'uscita di Weidmann non è nuova, è il tema di chi dice che uno spread più elevato crea pressione a fare riforme. Non mi convince. Il caso italiano dimostra al contrario che le riforme sono accelerate proprio mentre lo spread scendeva. Se c'è qualcosa che aggiunge incentivi in questo senso, semmai, è la recente comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nelle regole di bilancio. E tra l'altro proprio a pagina 3 trovate un'intervista fatta da Sebastian Joost, apparso sulla Welt am Sonntag, che la Repubblica pubblica, e un'intervista proprio a Jens Weidmann. Il titolo dell'intervista è: Weidmann insiste, mossa grave, il riferimento è al quantitative easing deciso da Mario Draghi, mossa grave, timori per l'unione monetaria. Ma vediamo quindi la prima pagina del Sole 24 Ore, che titola proprio sulle elezioni greche e sui riflessi che potranno avere sull'Europa in generale e sui mercati quando riapriranno lunedì. Europa e mercati al test di Atene, Tsipras punta ad allungare le scadenze del debito ma rassicura no ad atti unilaterali. Infatti l'idea appunto di Tsipras, al di là degli slogan magari particolarmente forti della vigilia, è di rinegoziare insieme a Bruxelles le regole imposte appunto da Bruxelles alla Grecia. Favorito il partito, il Sole 24 Ore, favorito il partito della sinistra radicale Siriza, Siriza significa proprio questo, partito della sinistra radicale, che contesta i vincoli posti dalla Troica. Vi dicevo dell'analisi sull'effetto del quantitative easing, il bazooka di Draghi sulla nostra economia. Il Centro Studi di Confindustria ieri ha pubblicato questa analisi: la liquidità della BCE può far crescere il PIL dell'1,8% in 2 anni. Le analisi invece sul voto greco sono di Mariano Maugeri, un'economia di guerra, inviato ad Atene. Ci racconta un po', tra l'altro, anche per esempio le reazioni delle persone tra i banchi di Varva Keikos, un tempo ricco mercato del pesce, e appunto i racconti da economia di guerra dei greci rassegnati all'euro e che sembrano aver dimenticato come si canta e si balla. E poi il reportage di Vittorio Darold, più proprio sulla cronaca della vigilia, e poi anche un'analisi dei voti degli ultimi anni in Grecia fatta da Roberto Dalimonte, che è appunto esperto di questi temi, che trovate poi a pagina 3. Come sempre la domenica la lettera risparmiatore di Vittorio Carlini, che ogni domenica si concentra su un titolo quotato. Questa volta il focus è su Anima Holding, che è una delle grandi aziende del risparmio, delle grandi società del risparmio gestito italiano. Ci spiega Vittorio Carlini: il gruppo Anima è in pole position nel risico del risparmio. Infine, come ogni domenica, anche l'intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasco Bruno Forte, che questa domenica si dedica anche al prossimo Presidente della Repubblica, che secondo Bruno Forte deve essere un Presidente che parla all'Europa e ai deboli. Trovate l'intervento, inizia sulla copertina del Sole 24 Ore e continua a pagina 16. La Stampa ha una fotonotizia dedicata alla Grecia. Le persone alcune delle persone intervenute a una delle manifestazioni di ieri, Grecia al voto della verità, l'Europa guarda a Tsipras. In questo caso l'inviata è Tonia Mastrobuoni, che appunto racconta un po' quello che ha colto ieri da queste ultime manifestazioni di piazza. Vi segnalo anche dalla prima pagina della Stampa il reportage, che poi magari avremo tempo di guardare meglio, di Domenico Quirico alle pagine 10 e 11, il reportage tra i siriani in fuga. Continua infatti l'emorragia proprio di siriani dal paese che è stretto in questa morsa da guerra civile che pochissimi raccontano, dalla costa turca l'ultimo viaggio per sperare ancora. Quindi dalla città costiere della Turchia, Domenico Quirico racconta come costi $7,000 il prezzo per un viaggio verso l'Europa e come moltissime persone vengano caricate su pescherecci che poi li portano su mercantili per il secondo pezzo di traversata appunto dalla costa turca verso l'Europa. Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo anche un articolo di Cesare Martinetti sul libro sottomissione di Hullebecq, sapete, questo romanziere francese che proprio pochi giorni prima dell'attacco alla redazione di Charlie Hebdo, il settimanale satirico preso di mira dai jihadisti, aveva pubblicato questo libro dove si immagina che nel 2022 la Francia diventi sostanzialmente una repubblica musulmana. E mentre secondo alcuni non è un libro particolarmente bello, ma comunque utile da leggere, per esempio era questo un po' il senso della recensione di Alessandro Baricco apparsa qualche giorno fa su Repubblica, secondo Cesare Martinetti invece questo libro va letto. Un'inutile lezione, dice Baricco, e invece leggere Hullebecq può essere molto utile. L'intelligenza tagliente è assicurata, i suoi libri, talvolta fastidiosi fino alla ripugnanza, si possono detestare e tuttavia anche amare, proprio come dice Baricco. Ma perché è inutile? La verità è che, gusti letterari a parte, questo Hullebecq con il romanzo Sottomissione ha messo le mani dentro le nostre viscere e ce le ha mostrate. La contemplazione non è sempre piacevole, però. Romanzetto di fantapolitica? Ma la vera fiction che qui va in scena non è quella della Francia governata nel 2022 da un presidente musulmano, ma quella di una politica che si autoriproduce in un cerchio chiuso e sempre più ristretto. E trovate il resto dell'articolo a pagina 19. La prima pagina del Messaggero, anche in questo caso dedicata alle elezioni in Grecia, mentre la fotonotizia è dedicata all'ostaggio dell'ISIS giapponese decapitato ieri. Nuovo orrore in video, decapitato il giapponese. I terroristi che hanno spiegato, uccideremo l'altro ostaggio, perché c'è appunto anche un altro ostaggio. Abbiamo tempo ancora per la prima pagina del giornale, che è invece dedicata alla corsa al Colle. Il nome segreto di Renzi, dice il giornale, il premier sogna di portarla al Quirinale, il costituzionalista De Siervo, amico di famiglia e suo maestro, quindi spunta un nuovo nome nel Toto Quirinale. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, vi segnalo quella di Libero, che ha un titolo ancora diverso dalle altre. Parte da una notizia trapelata ieri, che è quella sugli ingressi a Malpensa di terroristi, li definisce Libero, quindi 1000 ingressi all'anno con documenti falsi, quindi comunque persone che vengono da, diciamo, paesi sospetti e che hanno appunto documenti falsi. Il titolo: Malpensa, via libera ai terroristi. Mentre Tripoli ammette che Italia Gola della Libia controllano il traffico dei clandestini verso l'Italia, si scopre un'altra clamorosa falla nel sistema di sicurezza. Mancano i poliziotti all'aeroporto, chi dovrebbe arrestato viene solo denunciato e poi si dilegua. E il commento è di Maurizio Belpietro, il direttore di Libero. Vi segnalo anche altri due articoli dalla prima pagina di Libero. Uno è di Selvaggia Lucarelli sulla vicenda di Fabrizio Corona, che sapete è stato condannato e sta scontando 7 anni in carcere, ne ha già scontati 2. Si parla ora o di grazia o di arresti domiciliari per motivi di salute. Selvaggia Lucarelli ce lo racconta per come lo ha conosciuto e spiega anche: Corona merita il carcere, non certi amici. E poi vi segnalo un articolo di Antonio Socci, giornalista e esponente di CL, molto critico verso Papa Francesco, quindi è l'ennesimo articolo di critica verso appunto Papa Francesco. Pure i bergogliani sconcertati da Bergoglio, dal pugno ai conigli ai nuovi cardinali crescono i dubbi. E trovate questa ennesima incredibile, secondo me, critica che occupa tutta la pagina 16 di Libero. Sull'Avvenire invece c'è un titolo ancora diverso: voto bomba in Grecia, riesplode l'Ucraina. Qui il focus è appunto su quello che è successo ieri in Ucraina, con una strage di civili al mercato, che è un sintomo di un'offensiva filorussa. E appunto Avvenire unisce questi due fatti che potrebbero per l'ennesima volta sconvolgere gli equilibri geopolitici dell'Europa. La fotonotizia è dedicata proprio a Papa Francesco, che ieri ha avuto un'udienza al Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica per promuovere la cultura dell'incontro tra cattolici e musulmani, tra in generale con il mondo dell'Islam, e cultura dell'incontro per battere la violenza. Il Papa e il dialogo con i musulmani. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano ancora un titolo diverso, questa volta è un approfondimento su quella riforma delle banche popolari di cui si è parlato molto settimana scorsa. Se secondo il Fatto Quotidiano, è un regalo a papà Boschi, papà della ministra per le riforme Maria Elena Boschi, il pacco, e poi ci sarebbe anche un pacco dono a Mediaset. Si spiega in questa inchiesta che la riforma delle banche popolari fa guadagnare soprattutto quella dell'Etruria, il cui vicepresidente è il padre della ministra, che non si è astenuta. E poi quello che il Fatto Quotidiano definisce un super favore al Caimano, che è il modo in cui il Fatto Quotidiano chiama Berlusconi, rinviato di 18 mesi il nuovo digitale terrestre. Così Silvio salva canali e milioni. Vi segnalo anche l'editoriale di Marco Travaglio, che è tutto dedicato a Giuliano Amato. In realtà è già il quinto editoriale di Giuliano Amato. Marco Travaglio, con i suoi poderosi archivi, rispolvera tutta una serie di frasi, di documenti che riguardano la vita politica soprattutto di Giuliano Amato. Per esempio ci ricorda una lettera che Giuliano Amato spedì nel 93 a Bettino Craxi, mentre un altro grande indagato dell'allora PSI, Silviano Larini, era già stato arrestato e stava confessando alcuni reati in procura. Ed ecco appunto questa lettera che Giuliano Amato spedì a Bettino Craxi. Inutile aggiungere che naturalmente il Fatto Quotidiano è contrarissimo a questa possibile candidatura di Giuliano Amato come Presidente della Repubblica. Il Manifesto ha una foto molto simbolica, è una foto scattata ad Atene con una persona, sono mani femminili in aria, che con i palmi aperti, quindi non un segno convenzionale di vittoria, però probabilmente insomma l'auspicio è quello, perché il titolo è Alex Tsipras, la Grecia va al voto, Alexis Tsipras è il grande favorito, ma per conquistare il governo ha bisogno di una vittoria ampia della coalizione di sinistra, dalla quale dipenderà anche il futuro dell'Europa. Come abbiamo detto tante volte, infatti, se la vittoria non sarà così netta, Tsipras trova allearsi anche con partiti meno radicali del suo, con partiti del centro, addirittura del centro-sinistra, addirittura proprio di centro, e quindi le sue posizioni e anche la sua forza negoziale nei confronti di Bruxelles potrebbero essere diverse. C'è appunto l'ipotesi, un po' con un'ironia, di una sorta di grosse coalizioni, un po' come in Germania, quando sicuramente in questo momento le posizioni della Germania sono quelle più contrarie a questa posizione, a questo rivedere e quindi ammorbidire le regole che l'Unione Europea ha imposto alla Grecia. Tra l'altro domani, vi segnalo, perché il Manifesto normalmente non è in edicola lunedì, sarà in edicola appunto domani con un'edizione straordinaria dedicata al voto della Grecia. Vi segnalo la Gazzetta dello Sport, ieri c'è stato l'anticipo, l'avete sentito sicuramente, Lazio-Milan, il Milan ha perso e quindi la Gazzetta titola Sprofondo rossonero, la Lazio ribalta al Milan, ora Inzaghi è a rischio. E poi naturalmente approfondimenti sulle vittorie invece sulla neve degli italiani, con questo secondo posto di Paris, che è arrivato a 2 centesimi di secondi dal vincitore su quella che è forse la discesa libera più famosa, anche più difficile del mondo, appunto sulla pista di Kitzbühel in Austria. Veniamo alle pagine interne dei giornali. Abbiamo parlato della vicenda di Fabrizio Corona, che è in carcere, sta scontando 7 anni di carcere per tre condanne diverse. C'è anche un altro carcerato, diciamo, eccellente, che è Marcello Dell'Utri. In questo caso c'è l'allarme lanciato dal suo avvocato: sta male, in cella ha perso 12 kg, l'ex parlamentare tenuto a Parma, e il fratello dice, accusa appunto che viene tenuto Dell'Utri, che ha 73 anni, alle porte del 41 bis, che sapete quel regime carcerario particolarmente duro, e c'è appunto questa ipotesi di chiedere anche per lui o gli arresti domiciliari o comunque una misura meno dura del carcere. Dal Corriere della Sera vi sono una notizia molto curiosa, che è quella che riguarda un asteroide. Infatti domani notte sarà sufficiente avere un binocolo per vedere questo asteroide, che si chiama 2004 BL86, che passerà molto vicino alla Terra. Ed è appunto curioso vedere questi fenomeni che riguardano la grande galassia in cui ci troviamo, e con questo asteroide che a volte nei film di fantascienza o nei libri di fantascienza vengono visti come grandi pericoli per la Terra, in questo caso ci passerà molto vicino, ci illuminerà, ma non c'è alcun pericolo. Quindi appunto basta un binocolo, non bisogna andare in un osservatorio per vederlo. Vi segnalo anche l'amaca di Michele Serra, divertente, dedicata alle donne, soprattutto a come le donne vengono trattate nell'Islam, ma anche come forse qualcuno auspica potrebbero essere trattate qui da noi. E c'è molta ironia naturalmente nell'amaca di Serra. Ve ne leggo una parte: la moglie sottomessa cristiana è la pietra fondante su cui si edifica la famiglia, dice il pensatore arcit cattolico Mario Adinolfi, che sapete ha appena lanciato un quotidiano che si chiama appunto La Croce. Qualcuno lo avverta che quanto a sottomissione femminile la partita con l'Islam è perduta da tempo, e neanche se Adinolfi diventasse papa la cristianità riuscirebbe a recuperare il terreno perduto nell'ultimo paio di secoli. Più facile che siano le mogli musulmane, come hanno già fatto le mogli cristiane, a scuotersi dall'ingombro della sottomissione, poiché in molte parti del mondo, e fino a non molto tempo fa anche qui da noi, le femmine degli umani, proprio come i proletari secondo Karl Marx, non hanno da perdere che le proprie catene. Poi continua, ma ci lasciamo un attimo per le notizie sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Ci risentiamo per l'ultima parte della rassegna. Eravamo nelle pagine interne dei giornali. Vi segnalo dalla Repubblica una notizia sul memoriale della Shoah. Sapete che tra due giorni, martedì 27, è la giornata della memoria. È un giorno scelto perché il 27 gennaio del 1945 ci fu la liberazione di Auschwitz, l'ingresso degli alleati nel campo di concentramento e la liberazione dei pochi sopravvissuti. E allora la Repubblica ci racconta come per il memoriale della Shoah, che è stato progettato per Milano, i biglietti sono quasi esauriti, manca 1 milione però per finire il museo. È un museo che ricorderà in particolare quel binario 21 della stazione centrale, da dove tra il 43 e il 45 gli ebrei milanesi partirono verso i campi di sterminio. Ma torniamo al Sole 24 Ore. Vi dicevo tutta l'analisi su quello che potrebbe succedere oggi in Grecia, in particolare l'articolo di Roberto Dalimonte a pagina 3, 4 elezioni in meno di 6 anni, anche la politica è in crisi, e ci racconta appunto Roberto Dalimonte le ultime elezioni in Grecia con tutti i numeri e con anche le percentuali, con tra l'altro l'ultima elezione, quella del giugno 2012, con quell'impressionante successo di Alba Dorata, il partito di estrema destra, che conquistò addirittura il 6,9% dei voti. Vi dicevo l'analisi del Centro Sud di Confindustria, lo trovate a pagina 5 l'articolo di Nicoletta Picchio. Il quantitative easing può spingere il PIL dell'1,8% in 2 anni, sarebbe sicuramente quasi 3 volte quello 0,6% previsto da Padoan, di cui abbiamo parlato anche nell'intervista che il Ministro dell'Economia ha concesso a Repubblica. Dal Sole 24 Ore della domenica anche Nova 24, con un lungo articolo su quella che viene definita l'elettronica fai da te: penne per disegnare, circuiti integrati e stampanti per controller cambiano i confini degli artigiani digitali, l'articolo di Marco Consoli. Dalle pagine di Imprese e Territori del Sole 24 Ore un approfondimento sul parmigiano reggiano, che ha visto crollare i prezzi nel 2015, e ora ci spiega Anna Maria Capetelli. Sul parmigiano è battaglia, il sistema ha fatturato 1,2 miliardi, sono pensate 3.800 le aziende e i caseifici per 50.000 addetti, ma adesso per fronteggiare appunto questo calo dei prezzi è stato deciso un taglio della produzione, ma ovviamente molte aziende protestano perché la decisione del consorzio, che è un po' come sempre questi, pensate all'OPEC, alle decisioni dell'OPEC per esempio di tagliare la produzione per far risalire il petrolio o di non tagliarla per far scendere il prezzo, insomma sono decisioni che hanno sempre due facce: da una parte l'idea è quella di influenzare il prezzo e dall'altra però naturalmente ci sono conseguenze per i produttori. Sempre dal Sole 24 Ore le pagine interne, vi segnalo un'intervista di Lino Terlizzi a Patrick Odier, che è presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. L'ha intervistato a Davos, al forum di Davos. Il franco svizzero si stabilizzerà intorno a quota 1,10 con l'euro. Sapete che il 15 gennaio la Banca Centrale Svizzera ha fatto questo annuncio shock di sganciare il franco dall'euro e a finire con quel cambio fisso artificiale di 1,20 punti circa sull'euro. È stato uno tsunami, così lo hanno definito molte grandi aziende svizzere. Per loro, naturalmente, soprattutto per le aziende che esportano molto, come le aziende farmaceutiche o le aziende orologiaie, è un grosso problema. Probabilmente ci sarà una stabilizzazione. Appunto, Patrick Odier prevede quota 1,10. In questi giorni siamo più o meno alla parità. Ci sono tantissime altre cose che potrei segnalarvi dai giornali, ma preferisco passare un attimo ai supplementi culturali. E naturalmente, come sempre, cominciamo dalla Domenica del Sole 24 Ore, in particolare dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Il Gobbo e ha come spunto una storiella ebraica. Ben Menahem sta tessendo le lodi divine. Dio ha fatto tutto bello. L'eretico di turno, in vena di beffe, lo interrompe. Ah sì, Ben Menahem, e tu con la tua gobba anche tu fai parte delle meraviglie della creazione? Il nostro non si perde d'animo. Certo, mio caro, come gobbo sono assolutamente perfetto. Questa deliziosa storiella ebraica ci insegna tante cose, scrive Ravasi. Innanzitutto la prontezza nell'autoironia, che è segno di intelligenza. C'è poi la serena accettazione dei propri limiti, senza eufemismi ipocriti. L'eventuale handicap non sminuisce la dignità di una persona. Un altro aforisma rabbinico ricorda, infatti, che a differenza degli uomini che battono monete tutte uguali con un unico conio, Dio invece, con l'unico conio dell'umanità, fa le persone tutte uguali, eppure tra loro tutte diverse. Infine c'è in Ben Menahem la certezza che tutti, diritti o gobbi, fanno parte di un mosaico dove ogni tessera, anche quella apparentemente nera o bianca, ha un suo posto perché l'armonia sia perfetta. È perciò sbagliato piangersi addosso e non riconoscersi altrettanto necessari nel grande progetto dell'essere. La rubrica di Roberto Napoletano, il nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, raccoglie le reazioni a un suo articolo che proprio avevamo letto 2 settimane fa, dedicato ai volontari nei pronto soccorsi e in generale nell'assistenza sanitaria. Aveva scritto, appunto, aveva elogiato il lavoro di questi volontari, in particolare a Milano, proprio quando la cronaca suggeriva che c'è un'emergenza nei pronto soccorsi milanesi e non solo. Ora gli hanno scritto alcuni di questi volontari, le loro lettere sono raccolte nella parte bassa della copertina del domenicale. Il titolo è Grazie volontari d'Italia, popolo del sorriso. E poi vi segnalo un'interessantissima intervista di Eliana De Caro a Erna Solberg, primo ministro norvegese. Il titolo è Qui la politica non ha genere. Il primo ministro racconta come le donne siano coinvolte a tutti i livelli della cosa pubblica e per i cittadini non faccia differenza votare per candidati dei due sessi, una conquista che risale al 1981, pensate, con la prima premier donna. La lettura, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, sapete, la prima pagina è sempre lasciata per intero a un artista, questa settimana è per Nanda Vigo, e poi all'interno moltissimi approfondimenti. Come sapete, un po' lo stile della lettura è di prendere uno o più libri e poi discutere sul tema sollevato da questi libri. Allora vi segnalo per esempio a pagina 2 e 3, scusatemi, 4 e 5, con un articolo di Luciano Canfora, quello che viene definito l'eterno conflitto tra un po' il cristianesimo e l'islam, l'Oriente e l'Occidente, l'eterno conflitto dai Romani al Califfato. Il terzo secolo dopo Cristo fu definito l'età dell'angoscia, ora ci frastorna lo scontro di civiltà, ma è il solito urto tra privilegiati e diseredati che talvolta emerge con furore mistico. Quindi un'interpretazione un po' diversa, appunto, di questo rinnovato scontro di civiltà. Dal supplemento del Messaggero, Macro, tutto dedicato un po' alla Shoah, quindi alla giornata della memoria, e in particolare partendo da un libro. Il libro è Disegni degli internati nei campi di concentramento nazifascisti, è a cura di Arturo Benvenuti. Il titolo dell'articolo che ce lo racconta è Shoah, i segni della memoria. C'è tutto l'errore dell'Olocausto nei disegni realizzati dai prigionieri nel lager riuniti in questo volume. Con prefazione scritta da Primo Levi, una raccolta di 250 tra incisioni, acquerelli, schizzi e bozzetti, e l'autore che racconta, appunto, volevamo testimoniare ciò che stavamo vivendo. La copertina di Alias, il supplemento del Manifesto, è dedicata invece a un nuovo libro su Robert Capa, il grande fotografo, L'altra vita di Robert Capa, come un film da Electa, un viaggio galvanizzante nel suo fotogiornalismo. Il supplemento invece della Repubblica, la Domenica della Repubblica, è dedicato a Pinocchio, nel senso che Carlo Rambaldi, che sapete è il papà, il grande mago degli effetti speciali, e anche tra forse le sue creature più famose c'è cioè naturalmente E.T. dal famoso film di Spielberg. Carlo Rambaldi aveva un sogno: dare vita al burattino più amato del mondo. Prima di andarsene ci è riuscito, eccolo qua, e vengono pubblicati i bozzetti appunto di Carlo Rambaldi per il suo Pinocchio. E poi un interessantissimo articolo a pagina 30 e 31 dedicato a John Berger, che è un intellettuale molto difficilmente definibile, è un pittore, è un disegnatore, ma anche un saggista e anche un romanziere, e ci racconta Sebastiano Triulzi, questo lo descrive come colui che mette lo sguardo prima della parola e appunto cerca di raccontarci questo poliedrico personaggio inglese, intellettuale inglese. Moltissimi anche gli altri articoli dalla Repubblica, e per esempio vi segnalo anche su una mostra molto bella a Palazzo Barberini, una mostra che rivela un dipinto ritrovato dell'allievo di Michelangelo, Daniele da Volterra, con questo capolavoro Davide e Golia, un capolavoro sconosciuto, quindi appunto scoprire a volte pittori meno noti ma che ci sorprendono sempre, per chi si trovasse a Roma, questa mostra a Palazzo Barberini. Ringrazio Peter Bescapè in regia, auguro a tutti una serena domenica, mi raccomando comprate tanti giornali, sono ricchissimi anche questa settimana. Una buona domenica da Giulia Crivelli.